Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buongiorno cari amiche e cari amici, in attesa di risentirci per la puntata di questa sera, vi propongo di riascoltare la trasmissione andata in onda la settimana scorsa. Buonasera cari amiche e cari amici, ci approssimiamo alla fine dell'anno, nei prossimi giorni faremo probabilmente ciascuno nel silenzio della propria casetta un bilancio di questo anno che è passato, esamineremo i giorni più fortunati, quelli meno fortunati, gli incontri positivi e quelli da dimenticare, magari perché funestati da qualche imbecille, e magari ripenseremo a qualche prova di imbecillità data da noi stessi. Potremmo fare questo esame anche col libro di Maurizio Ferraris, L'imbecillità è una cosa seria, pubblicato al Mulino, 130 pagine, 12 euro, l'autore è uno dei più noti filosofi italiani, insegna a Torino, e affronta un tema apparentemente frivolo, con garbo da scrittore consumato, ma profondità da studioso riconosciuto. Imbecilli, dice l'autore, siamo tutti, anzi, nasciamo tutti imbecilli, nel senso naturale ed etimologico. Imbecilli viene da in baculum, privo di bastone, bisognosi quindi di tutto, a partire da qualcuno che quando nasciamo e per qualche tempo ci deve nutrire e accompagnare nei primi anni di vita. Poi, e questo è il paradosso dell'uomo, diventiamo imbecilli, per così dire volontari, quasi per scelta. Nello sforzo di migliorare, di renderci autosufficienti, di conquistare nuove mete, diamo prova della nostra imbecillità, facciamo errori, sbagliamo. È il paradosso, anzi la dialettica, illuminata appunto da Ferraris, il quale scrive: sembrerebbe che l'imbecillità insidi l'umano anche e soprattutto quando cerca di sollevarsi sul suo stato di natura. Passare dallo stato di perfetto imbecille a quello di imbecille imperfetto, questo è un po' il destino dell'uomo, e proprio per questo tanto più profondamente e radicalmente imbecille, perché scontento, scomposto, velleitario. E appunto di questo adesso parliamo con l'autore. Buonasera a Maurizio Ferraris. Buonasera. Maurizio Ferraris, dunque, a leggere il suo libro sembra che l'imbecillità sia connessa con la natura umana, anzi sia una caratteristica quasi esclusiva dell'uomo. Le bestie non fanno bêtise, come dice Lacan, che lei ricorda nel suo libro. No, non è Lacan, non è per correggere, ma perché è appunto di una lotta fra Lacan e Derrida. Per Lacan le bestie possono fare delle bêtise, mentre per Derrida non lo possono fare, ma questo è relativamente poco interessante, soltanto per dire che anche questa è una materia controversa, anche tra, come dire, spiriti eletti che peraltro a loro volta magari delle bêtise le hanno fatte. Quindi però il punto essenziale, giusto per farsi capire, che se uno dice a un cane sei un imbecille, è un po' per metafora, è come se uno dicesse alla regina delle api sei una regina, mentre se uno lo dice a un essere umano sta dicendo una cosa molto vera e molto seria. E infatti lei dice che l'imbecillità è indifferenza ai valori cognitivi, quindi in pratica in che cosa si manifesta l'imbecillità? Ma puoi avere 10.000 prove e non ti importa niente. L'esempio classico è quello di questo Millar Astraite, che era il capo della legione spagnola, eccetera, che nel 1936 c'è una commemorazione all'Università di Salamanca. Il filosofo Miguel de Unamuno dice una cosa un po' scortese nei suoi confronti, che era mutilatissimo, e gli dice: sì, lei vuole una Spagna mutilata. A questo punto questo si arrabbia e grida: basso l'intelligenza, viva la morte. Purtroppo noi vediamo una grandissima quantità di casi in azioni individuali e collettive in cui questo abbasso l'intelligenza vive la morte, quindi l'indifferenza non solo rispetto ai valori cognitivi, ma anche semplicemente a valori del buon senso. Io posso anche non essere interessato a sapere qual è la capitale del Paraguay, ma invece quanto a fare delle scelte che possono danneggiarmi la vita, potrei avere degli interessi a tutelarmi. Invece, per esempio, anche le vicende politiche, spesso se ne è parlato tanto, dimostrano questo tipo di indifferenza o quasi di preferenza della soluzione peggiore. Lei descrive le molte forme che può assumere l'imbecillità. Si può essere persone intelligenti e nello stesso tempo imbecille, persone colte e imbecilli. E poi c'è un'imbecillità delle élite che lei nota spicca di più perché fa più danni. L'imbecillità di élite, scrive, sembra ancora più acuta, più eccellente, insomma più scelta dell'età dell'imbecillità di massa. Come si manifesta questa imbecillità dell'élite? Perché è più pericolosa? Ma intanto e più visibile, soprattutto un tempo, cioè Maria Antonietta che dice al popolo affamato dategli delle brioche, è un'uscita infelice che però ha attraversato i secoli, mentre quel, magari anche il popolo avrà detto delle stupidaggini all'epoca, ma non era documentato. Adesso invece attraverso i social network diventa iperdocumentato, e quindi se l'impressione falsa è che ci siano più imbecilli che un tempo, no, ci sono solo più registrazioni e documentazione dell'imbecillità di quanto non accadesse una volta. Perché l'imbecillità degli elite sia più rischiosa è perché solitamente sono le elite che prendono le decisioni, quindi se un'elite decide, poniamo, di invadere la Polonia, poi sono guai. E fra queste elite c'è la politica, lei ha già fatto un accenno a questo aspetto del rapporto tra imbecillità e politica, l'ambito nel quale forse le conseguenze dell'imbecillità sono più devastanti, come appena ricordato. Lei scrive però che il vero strumento in positivo e negativo dell'arte regia e politica è l'imbecillità, quindi dobbiamo essere rassegnati al fatto che la politica è imbecille? Guardi, questo al di là di tutto lo diceva persino Platone nella Repubblica, quando dice: va bene, adesso abbiamo creato lo Stato perfetto, però dovremmo creare anche una favola verosimile per far accettare ai governati questo Stato perfetto che magari a loro non piace lì per lì. Cioè, come se quell'idea per cui ci possa essere una totale trasparenza ed equità in politica venga poi contraddetta dal fatto che la politica trae enorme vantaggio dalle debolezze, quindi anche dall'imbecillità umana, e d'altra parte trova in fondo la propria ragion d'essere nelle debolezze e imbecillità umane, perché se gli uomini fossero in grado di governarsi da sé, cioè se non fossero imbecilli, certo non avrebbero bisogno di politica. E lei a questo proposito ricorda come la visione palingenetica della politica sia la più aperta al rischio dell'imbecillità, se la prende anche con Rousseau, mi pare, a un certo punto. Eh sì, perché molte idee politiche degli ultimi due secoli sono tutte basate sull'idea che c'è questo essere meraviglioso, stupendo, allo stato di natura, l'uomo, con tutte le virtù, tutte le intelligenze, le bravure, che poi viene alienato. Termine iper utilizzato negli ultimi due secoli, allontanato da sé, privato, rovinato dalla tecnica, dai cattivi compagni, dall'ideologia, eccetera, e a questo punto si trasforma in un mostro pericoloso. È ovvio che se tu parti da una immagine così falsata dell'essere umano, poi sarai sempre deluso, comunque troverai delle medicine o delle tecniche sbagliate, perché in definitiva l'umano sembrerebbe essere giusto il contrario, cioè un essere debole, imbecille appunto, nel senso che non è tanto dotato da natura, che per diventare autonomo impiega un tempo infinitamente più lungo che gli altri animali non umani, che proprio da questa lunga dipendenza acquisisce una forma di sottomissione che gli animali non umani non hanno, cioè un gatto è molto più autonomo di un bambino, e soprattutto non è che un gatto si emancipa a 35 anni se si emancipa. E quindi, partendo da quel presupposto dell'umano perfetto e poi rovinato, si ha sempre l'idea che una volta che permette all'umano di esprimersi davvero, allora avremo il paradiso. Invece no, abbiamo l'inferno. Un tema sul quale lei si sofferma in vari punti del suo libro è quello del rapporto tra l'imbecillità e la tecnica, la modernità meglio. E lei nota come la tecnica in sé non sia uno strumento di imbecillità, però la può amplificare. E la tecnica è veramente, come dire, come diceva Platone, già della tecnica è un farmaco, cioè insieme un veleno e un rimedio. È un rimedio perché appunto l'etimologia di imbecille è imbaculum, privo di bastone, cioè l'uomo allo stato di natura senza niente, che quindi non è buono a niente. Poi si dota di un bastone, protoforma della tecnica, e a questo punto comincia a fare qualcosa, ad essere più, più forte, insomma, come lo scimmione in 2001 di Odissea dello spazio, tanto comincia a far danni, cioè a picchiare gli altri. Come risultato, che cosa emerge da tutto questo? Che la tecnica insieme, l'enorme barriera infinita che ci separa dall'animalità e che definisce il progresso, la cultura, il mondo dello spirito. Tutto questo è tecnica, è qualcosa che si aggiunge ad un umano che naturalmente è molto poco e molto povero. Al tempo stesso però è anche lo strumento di, come dire, di esteriorizzazione di quello che siamo, e purtroppo, visto che siamo anche tanti imbecilli, ci rivela pubblicamente per quello che siamo. Al termine del suo libro lei indica due terapie per arginare o per cercare di salvarsi dall'imbecillità. La prima è riacquistare un po' il senso del ridicolo, e la seconda terapia, forse ancora più sorprendente, è mettersi in cerca della mediocrità, una dote che in fondo non gode di tanta buona stampa. Eh sì, perché la mediocrità, che la mediocrità è una cosa nobilissima. Aristotele dice che la mediocrità è perfetta per le virtù etiche, perché lui dice: si tratta di non esagerare, è il medio fra due estremi, la virtù etica. La virtù dianoetica, cioè le virtù che riguardano la conoscenza, invece si può andare lontano quanto vuoi. Però effettivamente, se guardiamo nella nostra vita, nelle persone che conosciamo, uno che esagera in un senso oppure nell'altro scoccia, da fastidio, eccetera. Ci piace uno che esageri in intelligenza o in espressività artistica, ma uno che esageri, poniamo, in confidenza oppure nello spendere oppure nel tenersi soldi e non darli a nessuno, eccetera, questo è un vizio. Quindi quando poi si trasforma questa mesotes, medietà, nell'aurea mediocrità, e poi si comincia a criticarlo dicendo: ah, il mediocre. No, guarda che tu puoi essere contemporaneamente un grande scrittore, uno scienziato universale, e praticare la dote dell'aurea mediocrità all'interno della tua vita pratica, e sarai molto meglio invece di cosa è successo invece nella società dei mass media. Visto che solo l'eccezione si nota, l'eccesso è diventato la forma di vita corrente. Grazie a Maurizio Ferraris, autore dell'Imbecillità è una cosa seria. Buona serata. Grazie a lei, buonasera. Ferraris nel suo libro cita molti imbecilli illustri, e i suoi strali si appuntano in particolare su Martin Heidegger e su Jean-Jacques Rousseau, come abbiamo appena sentito, ma ce ne sono altri non meno sorprendenti. Per esempio si parla di Dostoevskij, che viene definito da Ferraris un imbecille a fasi alterne, secondo il ritmo degli attacchi epilettici, intelligente e imbecille insieme, come il suo Raskolnikov. E chi voglia riconciliarsi con Dostoevskij potrà farlo leggendo una nuova edizione di uno dei suoi capolavori, Scritti dal sottosuolo, un libro del 1864 che spiega Tatiana Kazakhtina. E tra i testi di Dostoevskij più apprezzati della cultura europea del XX secolo, ed è considerato un antesignano dell'esistenzialismo, tuttavia è anche, aggiunge, una delle sue opere più incomprese. Questa edizione è curata dalla stessa Kazakhtina e da Elena Mazzola, pubblicata dalla Scuola, 334 pagine, 16,50 euro, ed è accompagnata da altri due scritti del grande autore russo, Masha e Distesa al suolo e Socialismo e Cristianesimo. Contemporaneo di Dostoevskij fu Nikolaj Leskov, uno dei maggiori scrittori russi e soprattutto uno dei più amati scrittori dai russi. È considerato una sorta di anello di congiunzione proprio tra Dostoevskij e Tolstoj, al quale Leskov fu peraltro devotissimo. Leskov in particolare è riconosciuto come un grande maestro nel genere dei racconti, e ne escono tre nella raccolta Tre Giusti, tradotti e curati da Paolo Nori per Marcus & Marcus, 254 pagine, 13 euro. Il primo di questi tre racconti è famosissimo, si intitola L'angelo sigillato, è un racconto che si avvia proprio in una freddissima giornata di fine dicembre, e racconta di un'icona che diventa quasi il simbolo dell'intolleranza religiosa e dell'attaccamento dei russi alle loro tradizioni religiose. Poi abbiamo, a proposito della Sonata Kreutzer, e L'uomo di Sentinella, due racconti che contribuiscono a darci un'ulteriore descrizione dello spirito profondo dell'anima russa. E a questo punto ci interrompiamo per un attimo e ci risentiamo fra pochi istanti. Cos'è stato? C'è qualcuno? Sono io, Dylan Dog. Quel Dylan Dog. E lui è il mio amico Brucio. Ciao, bello. Intenditrice, eh? E dovresti vedermi nudo a cavallo. Impazziresti per il cavallo. Pianta, la Grucio, non possiamo. Mi aspettano a Radio 24. Che cosa devi fare? Vogliono che racconti le 8 storie più emozionanti dei miei 30 anni di avventure. Dylan Dog, l'indagatore dell'incubo. da lunedì 26 dicembre alle 18 su Radio 24. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba. Adesso una serie, forse l'ultima per quest'anno, di titoli natalizi. Cominciamo con un grande teologo che ci fa avvicinare al Natale religioso. Lui è Ino Sbiffi, milanese, che raccoglie alcuni testi tratti dal libro Il Tempo della Grazia. Nel libro di cui adesso vi parlo, Il Tempo di Natale, che è curato da Gianfranco Colombo e pubblicato da Yacabook, 78 pagine, 10 euro. Il libro è diviso in due parti. Ci sono meditazioni sul tempo del Natale e poi dei commenti ai testi liturgici delle feste che ricorderemo nei prossimi giorni, che ricordiamo non è solo il Natale, è perché poi ci sarà la festa di Maria Santissima, Madre di Dio, l'Epifania e infine il battesimo del Signore. E sentiamo dalla prima parte del libro di Biffi alcune righe sul significato di un gesto che ci scambieremo e per il quale ci stiamo preparando in questi giorni. Possiamo sottolineare, sempre per questo tempo natalizio, un punto importante, quello della fraternità umana che deriva proprio dal Natale di Cristo. Con Lui, Figlio eterno di Dio, anche noi diventiamo figli di Dio. In Cristo ritroviamo il Padre e perciò ci ritroviamo non più estranei gli uni rispetto agli altri, ma veri fratelli. Si potrebbe dire che a Betlemme si forma la famiglia di Dio composta da tutta l'umanità. Il Natale è un annunzio e un impegno di reciproca carità. I doni che ci scambiamo sono solo simboli di strenne più preziose e più gradite. Facciamo trovare, cominciando dai nostri più vicini, come strenna natalizia, il nostro perdono, se occorre, e il nostro amore sincero, durevole, concreto. Un'altra lettura a tema natalizio è il libro che raccoglie i racconti sotto l'albero, è pubblicato dall'Indau, 160 pagine, 14,50 euro, dove troviamo le pagine che alcuni grandi classici dedicarono al Natale, e troveremo qui anche pagine e autori un po' trascurati come Emilio De Marchi, Luigi Capuana, Grazia Deledda, ma anche Giovanni Arpino e Charles Dickens tra gli altri. Un gelido in senso meteorologico Natale è quello che ci viene raccontato da Gunnar Gunnarsson nel libro Il pastore d'Islanda, pubblicato da Iperborea, 140 pagine, 15 euro, tradotto da Maria Valeria Davino. L'autore è un noto, notissimo scrittore islandese, vissuto tra il 1889 e il 1975, che si affermò in Danimarca, anzi scrisse i libri in danese e poi in vecchiaia li ritradusse nella sua lingua, nella sua Islanda, dove era tornato appunto da anziano. Questo è un libro del 1936 ed è considerato a suo modo un classico, è letto spesso dagli ammiratori dello scrittore proprio nelle serate natalizie, quando si svolge la trama del libro. La trama è quella di un pastore, Benedict, che ogni anno all'inizio dell'avvento si mette in marcia, accompagnato solo dal cane e da un montone, si mette in marcia per le montagne della sua isola a recuperare le pecore che si sono smarrite nel corso dei mesi estivi. Il clima naturalmente è proibitivo, ma Benedict, il protagonista, trova la pace in quell'avventura annuale che è apparentemente folle, ma invece è assai coerente con le convinzioni profonde del pastore, che va appunto in cerca di bestie sfuggite tra i raduni regolari dell'inverno. E scrive l'autore: dovevano morire di freddo e di fame solo perché nessuno aveva la voglia o il coraggio di cercarle e riportarle a casa? Erano pur sempre esseri viventi, e Benedict aveva una specie di responsabilità nei loro riguardi. Il suo scopo era semplice: trovarle e ricondurle a casa sane e salve prima che la grande festa portasse la sua benedizione sulla terra e pace e gioia nel cuore degli uomini di buona volontà. Rimaniamo in Islanda con le fiabe islandesi, tradotte da Silvia Cosimini, sempre per Iperborea, 212 pagine, 16 euro, dove troviamo testi che ci avvicinano tra l'altro alla sensibilità e alla cultura islandese, facendocene cogliere i tratti più caratteristici. Infine vi segnalo alcuni titoli particolarmente adatti per fare le ultime strenne. Agli appassionati o per gli appassionati di musica segnalo i primi due volumi di una storia dell'opera scritta da Elvio Giudici, che è un critico musicale che con Saggiatore ha avviato il ciclo L'opera, storia, teatro e regia. Si parte con il 600, 502 pagine, 35 euro, e poi il 700, 824 pagine, 40 euro. Questa è un'opera certamente monumentale ma preziosa per cogliere lo sviluppo di un genere musicale nato in Italia. E qui troviamo per ogni periodo una presentazione e poi una serie di capitoli dedicati ai grandi autori dell'opera e ai loro capolavori. Di questi troviamo un'originale serie di schede sulle rappresentazioni e le regie più significative, oltre naturalmente alla discografia, quindi uno strumento molto utile per rafforzare la nostra cultura musicale, ma anche per considerare lo sviluppo dell'opera in scena quando essa si dimostra capace di dar vita a spettacoli di grande impatto emotivo. Poi c'è un altro libro bellissimo perché ricchissimo di illustrazioni, questo, ma soprattutto di contenuti, ed è un libro su uno dei miti fondanti della civiltà occidentale, cioè Ulisse. L'autore è Piero Boitani, uno studioso di letteratura comparate, si intitola Il grande racconto di Ulisse, pubblicato al Mulino, 670 pagine, 55 euro. L'autore è innamoratosi di Ulisse a 8 anni e ci racconta qui un personaggio sempre capace di sorprenderci e di accompagnarci, con sfumature diverse della propria personalità che magari siamo capaci di scoprire e di cogliere meglio col passare dell'età. Un personaggio che Boitani così ci introduce. Questo uomo va alla ricerca di quello che Dante chiamava l'esperienza, i vizi umani e il valore, cioè di quello che l'uomo vale e non vale. Insomma, va alla ricerca della sua virtù etica. Conosce gli uomini e il mondo. Se ne va per luoghi ignoti. Infine, agli appassionati di libri illustrati segnalo uno strepitoso Tommy Ungerer, il grande illustratore francese, noto soprattutto per i libri per l'infanzia, ma anche autore di libri per adulti, come questo che finora era rimasto inedito in Italia, un libro del 1966, si intitola The Party, è pubblicato da Clichy, 19 euro. E qui leggiamo in inglese i commenti di Ungerer ai disegni che rappresentano appunto un party della migliore società newyorkese, di cui qui l'autore ci dà una serie di ritratti impietosi e sarcasticamente ridotti alla fine a una serie di manichini che si reggono l'uno sull'altro in una delle ultime tavole. Naturalmente anche a New York l'upper class è molto cambiata dalla grande aristocrazia imprenditoriale newyorkese che abbiamo trovato sarcasticamente descritta nel libro di Ungerer, e siamo passati oggi a una classe spesso di neoricchi, anzi neoricchissimi, arrembanti, assettati di una fortissima voglia di riconoscimento sociale. È quella classe che troviamo descritta nel libro di Wesley Martin, che è un'antropologa e che ha scritto Nella giungla di Park Avenue. La tribù più chic del pianeta nasconde un lato selvaggio, pubblicato da Book Me, che è un marchio di Agostini, 286 pagine, 14,90 euro, ed è tradotto da Letizia Sacchini. L'autrice, come dicevo, è un'antropologa e studia come fosse appunto una tribù sconosciuta, quella dei nuovi ricchi di New York, anzi delle nuove ricche di New York. Un ceto nel quale si trova catapultata. Lei è nata come una ragazza di provincia normale, di media borghesia, si è trasferita a studiare a New York, dove si adegua presto ai ritmi della città e agli stili di vita della metropoli. Sposa un newyorkese e la coppia va a vivere nell'area un po' bohemienne del Village, dal quale però si vogliono allontanare traumatizzati dall'attentato dell'11 settembre, e approdano dunque in una delle zone più chic di New York, nell'Upper East Side, dove ben presto l'autrice scopre che quell'area è, scrive, un'isola all'interno dell'isola di Manhattan, dove le mamme costituiscono una tribù a parte, una società segreta con un intero sistema di regole, rituali, codici di abbigliamento e rotte migratorie, un insieme di idee, ambizioni e pratiche culturali a me sconosciute. Incuriosita e coinvolta, la giovane mamma si mette a studiare le sue isteriche colleghe, tutte bionde, bardate fin dalla prima mattina con capi di abbigliamento costosissimi e divorate da una voglia di affermazione sociale che diventa una vera e propria guerra permanente contro i possibili avversari, una guerra al centro della quale ci sono i figli, per il concepimento dei quali si fanno addirittura degli attenti calcoli cronologici affinché il mese di nascita del bebè ne favorisca poi l'accettazione nei più prestigiosi asili della zona, che sarebbero altrimenti interdetti a chi è nato in un mese sbagliato. Il libro è a tratti esilarante, ma condotto appunto col taglio di una studiosa che vive sulla propria pelle le abitudini spesso incomprensibili di una tribù rarefatta ma influente, dotata di codici esclusivi. Vi propongo adesso alcune righe tratte da questo libro e che riguardano proprio l'ambientino dell'asilo dei bambini, un ambientino tutt'altro che dolce e disinvolto, ma che diventa il simbolo per eccellenza della divorante e smaniosa ambizione delle signore ricche di New York. Ovviamente Onestamente, avevo sottovalutato ciò che mi attendeva. Sarò sincera. Esclusi gli stagni nel deserto del Serengeti durante la stagione secca, non esiste luogo più disperante e pericoloso inospitale di un'esclusiva scuola materna di Manhattan al momento dell'ingresso e dell'uscita dei bambini. In confronto, le sale riunioni della Goldman Sachs, dove secondo un nostro amico non si prendono nemmeno la briga di pugnalarti alle spalle, ti colpiscono al petto e si puliscono le suole sul tuo cadavere, sembrano un posticino accogliente dove andare a passeggio con la zia Bea di Duluth. Eravamo approdati nell'asilo più chic del quartiere più snob della città più ricca degli Stati Uniti. Avrei dovuto avere un sentore di ciò che sarebbe accaduto. Invece no. Mio figlio cominciò la scuola materna al culmine del boom economico. Nelle vene degli abitanti di Manhattan scorreva adrenalina pura. La speranza addolciva l'aria. Giorno dopo giorno la gente concludeva affari e comprava seconde, terze e quarte case. Sembravano tutti ebbri di felicità. E a questo punto... il confettino. Vi segnalo naturalmente una serie di libri natalizi. Cominciamo anche qua con la dimensione religiosa di questa ricorrenza. Che cos'è stata la Natività? Viene spiegato in un libro che aperto può diventare un vero e proprio presepio narrato. Il libro è di Alberto Benevelli, illustrato da Loretta Serofli, si intitola La luce di Betlemme, è pubblicato dalle Paoline, 14 euro, e con l'illustrazione a piena pagina e testi essenziali spiega il mistero del Natale ai lettori più piccoli. Ancora il tema della luce troviamo nel libro di Lara Albanese, illustrato da Maria Gianola, Palla di neve sporca, la vera storia della stella di Natale, pubblicato da Jacobook, 12 euro. La stella di Natale è la cometa, in questo caso naturalmente non la pianta, e il titolo si riferisce alla definizione che l'astronomo Fred Whippy diede del modello delle comete, una delle quali qui condurrà l'asino novello a ritrovare la sua capanna, che troverà stranamente occupata da un papà e da una mamma che vegliano un bambinello. Di clima natalizio è La nuvola Olga, Un Natale con i fiocchi di Nicoletta Costa, pubblicato da M Edizioni, 12,50 euro. Qui abbiamo una nuvoletta, Olga appunto, anch'essa accolta dalla frenesia del regalo, che riuscirà ad assicurare alla bambina Lucia un Natale incantato. Per i lettori più grandicelli, Raccontini di Natale di Donatella Bindi Mondaini con le illustrazioni di Elisa Paganelli, 150 pagine, 18,90 euro, pubblicato da Einaudi, 12 racconti d'ambientazione natalizia, spesso insoliti, come quello di un Babbo Natale che approda fortunatamente in un'isola tropicale, o un altro racconto che rievoca i Natali nelle trincee della Grande Guerra sulle Dolomiti. E infine vi segnalo di Magali Le Huche, Artù Caribù, Un Natale da salvare, pubblicato dalle Edizioni Clichy, tradotto da Tommaso Guerrieri, 15 euro. Qui troviamo un Babbo Natale in ritardo che riuscirà a compiere la sua missione grazie a un intraprendente caribù. Quella che avete ascoltato era la riproposta della puntata andata in onda domenica scorsa. Vi do appuntamento alla puntata di questa sera che va in onda alle 22:30. Buona domenica a tutti.